con me. Vieni bambola mia, vieni vieni con me, voglio stare con te. Forse tu non lo sai, non sai che ti amo. Vieni vieni gelosa, sempre aspetto te. Non lo sai che ti amo, vieni, vieni gelosa, sempre aspetto te. Ti prego vieni con me, vieni bambola mia, vieni, vieni con me, voglio ballare con te. Sai che ti amo, vieni, vieni gelosa, sempre aspetto te.